Linee d'ombra di Matteo Caccia. Berlino Est era una città squallida, c'erano pochissime persone che andavano in giro, i palazzi erano veramente brutti. Dopo una serie di tira e molla, verso le 5 decidemmo di andare a Berlino Est per vedere oltre la cortina di ferro. Storie di gite di piacere e gite di lavoro nella Germania dell'Est, in una puntata che si intitola Al di là del muro. Davvero tu sei della Stasi? Ma lo sai che cos'è? La Stasi? Sì, papà dice che sono degli uomini tanto cattivi che mettono la gente in prigione. Davvero? E come si chiama? Come si chiama chi? La tua palla. Il nome della tua palla. Ma che domande? Le palle non ce l'hanno un nome. Quella che avete sentito è una scena di quel meraviglioso film che si intitola Le vite degli altri. Se per caso non l'avete visto, quello che accade è che all'interno di un ascensore quest'uomo, che è il protagonista ed è un attore tedesco davvero meraviglioso, che a me è mancato un paio di anni fa, mi pare, 2 o 3 anni fa, sale verso casa sua, arriva un bambino con un pallone e c'è questo dialogo per cui il bambino sta per mettere dannatamente nei guai il padre, e poi invece lo stesso protagonista decide di virare non sul padre ma su quell'oggetto che ha in mano, cioè una palla, e giustamente il bambino gli dice: ma le palle non hanno nome. Si intitola Al di là del muro, la puntata di questo venerdì di Linee d'ombra. È una puntata che ovviamente ha al centro, nel cuore, un muro che divide, una linea di confine che non è una linea d'ombra, in questo caso è proprio una linea estremamente fisica. Quando pensiamo a un muro nella città, pensiamo ovviamente al muro di Berlino, pensiamo a quel muro, alle immagini del muro che viene abbattuto a picconate. Se siamo stati a Berlino, lo vediamo negli edifici di Berlino Est, che adesso sono pieni di giovani e di coppie, di famiglie meravigliose e di locali, bar, ma all'epoca non era così, e nella loro architettura si vede distintamente la differenza. Un'architettura molto sovietica, si dice, non so se ha senso definirla sovietica, però delle strade larghissime, questi palazzi enormi e anonimi, che eppure oggi hanno in qualche modo un loro fascino. Ecco, vi racconteremo storie che parlano di questo, che parlano di cortina di ferro, parlano di visite, di gite a Berlino quando ancora esisteva una Berlino Est e una Berlino Ovest, prima di virare poi verso Amsterdam, ma poi la storia la capiremo più tardi. E parleremo anche di come se si andava per lavoro a Berlino Est era molto complicato capire tutti i cavilli della burocrazia, al punto che il rischio era che arrivasse la polizia a prenderti. E poi continueremo con questa storia che vi stiamo raccontando, che è una storia davvero buia, davvero cupa, la nostra storia seriale di queste 3 settimane, quella di un ragazzo che scampa, scampa è davvero il termine più appropriato, al padre che ha ucciso la moglie, che ha ucciso quindi sua madre, e poi cerca di uccidere lui. Riesce a scappare, il padre tenta di suicidarsi, finisce chiaramente in prigione, e lui lentamente si riprende e decide di riallacciare i rapporti con il padre. Ce l'ha raccontata Mauro Pescio, ha raccolto questa storia e noi ve la stiamo raccontando giorno dopo giorno. Prima però di tutto questo vi facciamo sentire una piccola storia di rinascita. Stiamo raccogliendo proprio in questo tempo abbastanza buio, c'è da dire, adesso lentamente la primavera sta davvero finalmente un po' aprendosi, i numeri dei contagi sono in calo, insomma si respira, le aziende, si torna a lavorare, si spera che si torni a lavorare tutti, ma è stato comunque un periodo molto cupo, e abbiamo deciso di raccogliere qualche piccola storia di rinascita. Le storie di rinascita sono dei messaggi vocali che noi vi chiediamo di mandare al nostro profilo Facebook, che è Linee d'Ombra, oppure se volete anche banalmente al mio profilo Instagram privato, che è Matteo Caccia, però lì durano solo un minuto, meglio il profilo Facebook di Linee d'Ombra, e in cui ci raccontate una piccola cosa che vi è accaduta, che è stata difficile ma dalla quale poi siete rinati, dalla quale siete usciti. Ebbene, se avete voglia di mandarcelo, andate sul nostro profilo Facebook, andate sui messaggi privati e ci raccontate questa storia, come la protagonista della prossima storia, di cui sentiremo la viva voce, che ci racconta come è andata quando è mancato suo padre, eppure dopo un certo periodo la vita è tornata a fiorire. Eccomi a raccontare la mia rinascita, che avvenne con la morte di mio padre. È venuto a mancare lui, infatti fui libera di fare quello che volevo della mia vita, cioè dedicarmi al restauro. E fino ad allora era rimasto il mio desiderio più grande, contrastato però anche con violenza in casa. E l'avevo scelto come futuro, andavo ancora all'asilo, avrò avuto 5 anni, vedendo uno speciale sugli angeli del fango a Firenze, e non avevo mai cambiato parere. Per me però era stato scelto il liceo classico e poi l'opzione tra l'avvocato o il medico. Dopo la depressione mi era stato concesso di sospendere gli studi, così avevo iniziato a lavorare come segretaria. Perché? Perché questo lavoro mi permise di pagarmi i corsi serali di restauro e poi tanta bottega, tutto all'insaputa ovviamente della mia famiglia. Quindi è per quello che dico che solo la morte di mio padre mi regalò la libertà di essere quello che volevo. È così che io nacqui una seconda volta. Vacillai solo quella mattina di maggio meravigliosa in cui ero in auto, stavo andando a lavorare e quindi ero felicissima. Ero anche in dolce attesa dopo un tempo infinito in cui questo bimbo non arrivava. Ero felice, però ovviamente fece capolino nella mia testa il pensiero, ma non ti vergogni, come puoi essere tanto felice? Tuo padre è morto pochi mesi fa. E lì il senso di colpa che forse ancora oggi a volte mi attanaglia, perché io ho avuto la mia libertà solo dopo che lui se n'è andato. Era maggio 1980 e avevo appena terminato i miei 18 mesi di servizio militare nella Marina italiana. Adesso che avevo assaporato una certa indipendenza anche economica, iniziai a progettare con un amico un'avventura fuori dai confini nazionali. Il mio amico, che chiameremo Giovanni, era in contatto con un gruppo di ragazzi di un paesino del Molise che stava organizzando un viaggio a Berlino Ovest per far visita a dei loro amici berlinesi. Partimmo in 5 in macchina, sicuramente una Fiat. Arrivammo a notte fonda a Berlino Ovest. La zona era deserta e non riuscivamo a capire perché in tutte le strade ci fosse il cartello che indicava strada senza uscita. Lo realizzammo solo dopo. Eravamo arrivati a pochi metri dal muro. Dopo alcuni giorni riuscimmo ad ambientarci in questa città piena di bar e di locali sempre aperti, di strade sempre piene di gente a tutte le ore con ragazze e ragazzi che avevano voglia di divertirsi. Forse anche troppo. In questo verticoso vivere, dove sembrava che fosse sempre mezzogiorno, io e Giovanni ci trovammo davanti al Checkpoint Charlie. Si trattava del più celebre posto di passaggio, riservato ai soli stranieri tra Berlino Ovest e Berlino Est. Nella parte ovest si trovava il museo dove erano presenti documenti, foto e oggetti che raccontavano di come migliaia di berlinesi dell'est erano riusciti a scappare. Era primo pomeriggio e decidemmo di visitare il museo dove comprammo alcune cartoline che raffiguravano i tanti modi in cui i tedeschi dell'est erano riusciti a passare nella parte ovest della città. Dopo una serie di tira e molla, verso le 5 decidemmo di andare a Berlino Est per vedere oltre la cortina di ferro. Arrivati a quel punto era giusto che andassimo a vedere, ma è stato di comune accordo con questo mio amico di fare un salto e vedere che cosa c'era dall'altra parte, perché da una parte sapevamo che era diversa sicuramente Berlino Est rispetto a Ovest, e quindi volevamo verificare se effettivamente era così. Il checkpoint era praticamente una garitta un po' più grande, dove c'erano sia soprattutto dei soldati inglesi, e c'era anche qualche, abbiamo visto un soldato anche francese e un americano, però era prettamente inglese. Al controllo dei documenti, nella parte est, scoprirono le nostre cartoline, comprate da poco nel museo, e non ci fecero entrare. Tornati indietro, decidemmo di lasciare quelle cartoline al gabbiotto inglese del Checkpoint Charlie. Ci presentammo nuovamente al cospetto delle guardie dell'est. Dopo mille domande e controlli, fummo obbligati ad acquistare una certa quantità di marchi locali, moneta che nella Germania Ovest non aveva alcun valore. E infine ci lasciarono passare consegnandoci un fogliettino di carta con sopra delle scritte in tedesco. L'unica cosa comprensibile era la scritta 24H. Visto che erano le 18, deducemmo che saremmo potuti rimanere a Berlino fino alle 18 del giorno dopo. Insomma, finalmente eravamo dentro. Ci trovavamo di fronte a dei palazzi tristi, strade semivuote, una situazione completamente diversa da quella di Berlino Ovest. Tuttavia cercammo di conoscere persone, soprattutto ragazze. Dopo poco facciamo conoscenza con due simpatiche fanciulle che venivano da Rostock, cittadina situata a nord della Germania dell'Est. Chiacchierando ci spiegarono che per gli abitanti della Germania dell'Est non era semplice visitare Berlino. La loro visita era stata un premio per i buoni risultati scolastici. Passammo delle ore piacevoli. Verso le 23:45, mentre eravamo seduti in una scalinata di un grosso edificio pubblico, notammo una macchina della polizia che si aggirava nelle vicinanze. Qualche minuto prima delle 24 si avvicinarono e ci chiesero i documenti. Quando mostrammo quel foglietto con la scritta 24H, ci dissero, o meglio ci fecero capire in modo non molto gentile, che a quell'ora non avremmo dovuto essere lì e che di corsa dovevamo uscire da Berlino Est. Capimmo solo in quel momento cosa c'era scritto su quel foglietto. Il permesso era fino alle 24 dello stesso giorno dell'ingresso e non per 24 ore. Salutammo al volo le ragazze e ci indirizzammo correndo verso il Checkpoint Charlie, sperando di ricordare la strada che avevamo percorso di giorno. Fortunatamente, dopo diverse incertezze, riuscimmo a raggiungere il confine. Era quasi luna di notte. La scena che ci si presentò era spettrale. C'era un silenzio da mettere i brividi. Quasi subito si parò davanti a noi un donnone in uniforme, palesemente alterata. Pensando di fare bene, provammo a tagliare il percorso obbligato per raggiungere prima l'uscita, ma questo la fece molto irritare. Dovemmo pertanto seguire tutto il percorso tra i vari camminamenti, anche se ovviamente non c'era nessuna fila. Per un momento ho pensato al peggio. Ripensando a mente fredda, capì che probabilmente era solo arrabbiata per il fatto che a causa nostra aveva dovuto fare un'ora di lavoro in più. Insomma, finalmente riuscimmo a raggiungere la libertà. Non ci bastava aver sfiorato un incidente diplomatico. A luna passata avevamo anche la faccia tosta di bussare al gabbiotto inglese del Checkpoint Charlie per richiedere indietro le nostre cartoline. Bene, non solo ci aprirono, ma ci resero anche le cartoline. In ogni modo, per non rischiare ancora, decidemmo che era ora di puntare verso una città meno complicata. E alla fine optammo per Amsterdam. Una birra, fumo, musica. E dopo tu. Soltanto questo muro. Non ha freddo qui, qui. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Se poi la nebbia entra anche dai vetri. A Berlino non penso mai si può vivere. strade non so che giorno è. Avrete capito il motivo per cui si intitola Al di là dal muro questa puntata, perché questa è una di quelle storie, la storia di Giuseppe, che io amo particolarmente perché ti racconta un dettaglio minuscolo di una storia che è più grande, no? Quelli che di solito parlano di storia dicono la storia con l'S minuscola, cioè le storie private raccontano un pezzo della storia maiuscola, cioè della grande storia che tutti noi viviamo. E la caduta del muro e la suddivisione tra Berlino Est e Berlino Ovest appartiene a veramente alla storia che abbiamo dietro le spalle. Io che ho più di 40 anni mi ricordo benissimo quando la Germania era un po' di qua e un po' di là, quando le nazionali avevano le due maglie diverse e soprattutto quando nel 1989 quel muro è venuto giù. E Giuseppe quel muro invece l'ha addirittura attraversato. Pronto? Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a te Matteo. Tutto bene? Tutto a posto? Abbastanza bene, sì. Non abbastanza bene, sì. Con tutte le piccole difficoltà, però abbastanza bene. Senti, siamo... tu che cosa fai nella vita, Giuseppe? Come va il lavoro in questo momento? È fermo? È bloccato completamente? No, non è bloccato, per fortuna, però con molte difficoltà. Io sono un agente di commercio e quindi lavoro su vari clienti nel settore industriale, però ci sono clienti che hanno ripreso, clienti che hanno ripreso così così, clienti che ancora non hanno ripreso, quindi con tutte le difficoltà e le problematiche che ci sono in questo momento, certo. Ma tu riesci a muoverti, a viaggiare, oppure stai facendo? Sì, io dal 4, io sono stato 2 mesi tranquillamente a casa perché non potevo muovere, anche perché molte aziende erano chiuse, molti clienti erano chiusi. Ho lavorato col computer e col telefono, qualcosa ho fatto. E poi dal 4 di maggio ho iniziato i miei giri, però è ovviamente c'è una situazione complessa, ecco, complessa, perché le priorità sono cambiate, e, insomma, le difficoltà ci sono. Io ho prodotti sanificanti, quindi un po' mi salvo, però insomma le difficoltà ci sono comunque. Beh, diciamo che se mi avessero dovuto chiedere, senti, sei un agente di commercio, preferisci prodotti sanificanti oppure pellicce? Avrei detto sicuramente prodotti sanificanti, così. Certo, Giuseppe, certo, senti, certo, invece andiamo certo. Andiamo a Berlino Est e sì. Berlino Ovest, che è la storia che vogliamo raccontare. E quanto vi siete fermati in città, cioè tra Berlino Est e Berlino Ovest, in tutto quanti giorni avete passato? Ma una settimana circa. Sì. Però a Berlino Est giusto quelle poche ore, insomma, fino a che non realizzate. Sì, soltanto 4 ore erano, certo. era mezzanotte. Sì, l'abbiamo capito con molto ritardo, oppure francamente non lo volevamo capire perché alla fine la cosa ci piaceva. Però effettivamente erano 24 ore, cioè alle 24 di quel giorno noi dovevamo essere già a Berlino Ovest e invece avevamo interpretato che potevamo stare 24 ore. Certo, 24 ore. Sì. Senti, che cosa ti ricordi di Berlino Est? C'era gente per strada, che so, i bar erano aperti oppure... Sì, c'erano dei locali aperti, però il confronto con Berlino Ovest era impressionante, cioè Berlino Ovest... si viveva 24 ore su 24. Io ero stupefatto perché venivo da una piccola realtà e i locali lavoravano su tre turni, quindi non chiudevano mai. Passato di là, praticamente i locali alle 8, alle 20 di sera erano tutti chiusi, non c'era più niente. C'era già poco e poi alle 20 era tutto chiuso. Sei più tornato a Berlino, Giuseppe? Sì, ci sono tornato per lavoro, è stata un'altra esperienza complessa perché lavoravo in quei tempi per un'azienda che producevamo caldaie, era appena caduto il muro e dovevamo portare questa caldaia alla prima fiera che c'era importante e che si faceva proprio a Berlino, quindi ho caricato la caldaia in macchina e mi sono fatto... Da Pescara fino a Berlino, che poi non c'era più Berlino Est e Berlino Ovest. Certo. E questa è stata la seconda volta che sono stato a Berlino, per lì toccate fuga. Il tuo amico che fine ha fatto? C'hai ancora i contatti? Guarda, voglio precisarti una cosa, che la storia è perfettamente come l'ho raccontata. Io l'unica cosa che non riesco a ricordo benissimo la faccia di questo mio amico occasionale di quel periodo, non riesco a ricordare né il nome e neppure come l'ho conosciuto, com'è stato il giro che l'ho conosciuto, non riesco a ricordare altro. Ricordo il viso, ricordo bene il viso anche perché ho delle foto. Ci facemmo delle foto assieme a queste ragazze e quindi e poi questo periodo ho messo a posto un po' alcune carte in casa e ho trovato addirittura una cartolina che ci avevano spedito queste ragazze. È rimasto un po' là, è rimasto nel cuore questa piccola gita a Berlino Est. Sì. Un mondo che no. È passato in tutti i sensi, direi. Giusto? Completamente. Sì, sì, completamente diverso. Per la chiacchierata e per la storia ti faccio in bocca al lupo per tutto, per il tuo lavoro e per tutto invece quello che riguarda la vita di tutti i giorni. Grazie davvero. Ti ringrazio e tanti auguri anche a te. Even if I am in love with you, all this to say what's good to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walk to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. Fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. From the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena. La puntata di oggi si intitola Al di là dal muro, e più o meno avete capito perché e a quale muro si fa riferimento, e lo abbiamo fatto grazie chiaramente alla storia di Giuseppe. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61% ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. La prossima storia di questa puntata, che si intitola Al di là del muro, inizia così. Nell'ormai lontano 1986 lavoravo in una società con base a Torino, dove sono nato 60 anni fa. La società si occupava di pubblicità sportiva, prevalentemente di calcio. All'epoca i diritti pubblicitari nel mondo del calcio erano liberi, ovvero sia gestiti dalle squadre o direttamente o tramite agenzie, oppure di proprietà di chi gestiva gli stadi in cui si disputavano le partite, Coppa dei Campioni e partite delle nazionali comprese. Il lavoro della società per cui lavoravo era appunto quello di comprare i diritti pubblicitari di partite della nazionale e di club che si sarebbero giocate all'estero e trasmesse in diretta normalmente dalla RAI, e rivendere tali spazi alle aziende italiane non interessate ad essere viste in un contesto così prestigioso e da un audience così ampia. Questa è la storia che Luca De Ambrogio, un professionista torinese, ha raccontato quest'inverno in una serata romana di mio cugino, quella che la serata che tiene Mauro Pescio a Roma. In questa puntata che si intitola Al di là del muro, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il mio compito era appunto quello di volare, immediatamente dopo i sorteggi che definivano i calendari delle squadre, nei luoghi dove avevano sede le federazioni o i club con cui avrebbero giocato le squadre italiane. Fu così che mi trovai a dover andare a Berlino Est per incontrarmi con l'agenzia di Stato della DDR, che gestiva ovviamente in esclusiva i diritti della federazione del loro paese. Richiesi il visto assolutamente obbligatorio, come per tutti i paesi oltre Cortina di Ferro, al Consolato di Milano, presentando i necessari telex d'invito di un ente statale. Ottenuto il visto, volai a Berlino Est, che già conoscevo piuttosto bene. Dopo un paio di giorni, durante i quali incontrai l'agenzia con la quale dovevo negoziare i diritti che cercavamo di acquisire, ricevo un telex dal mio capo, da Torino, che mi dà l'incarico di recarmi nella vicina Dresda, sempre in DDR, per condurre un'altra trattativa, questa volta riferita ad una partita di coppa, quindi di un club. Semplice, noleggio una splendida Mercedes serie S, non c'erano mezze misure, o Trabant o Mercedes di lusso, e parto verso sud, destinazione Dresda. Arrivati davanti all'hotel che il mio ufficio di Torino aveva provveduto a prenotare, parcheggio l'auto che ovviamente attira sguardi, visto che la stragrande maggioranza delle poche auto in circolazione sono appunto Trabant o Wartburg, non certo delle meraviglie. Entro con il bagaglio nella hall dell'albergo, mi presento alla reception, esibisco il telex con i dati della prenotazione, l'impiegato che non parla inglese mi chiede il passaporto, lo esamina e poi mi fa segno di accomodarmi. Mi siedo in una polverosa poltrona nella hall completamente deserta e attendo, immaginando che la camera non fosse pronta, o qualcosa del genere. Dopo un po' di attesa, volendo rilassarmi dopo il viaggio in auto e volendomi preparare per l'incontro che avrei dovuto avere, sollecito l'impiegato, chiedendo in inglese di darmi la mia stanza o comunque una stanza qualsiasi. Di nuovo mi invita ad accomodarmi e ad attendere. Sto per spazientirmi quando sento una sirena avvicinarsi. Dopo un attimo, un'auto della polizia arriva frenando proprio davanti all'ingresso, vicino alla mia Mercedes. Mi chiedo, allarmato, cosa sia accaduto quando vedo i poliziotti scesi dall'auto precipitarsi dentro l'hotel. Corrono in direzione della reception e chiedono in modo concitato all'impiegato qualcosa che io non posso comprendere. L'impiegato indica verso di me e i due poliziotti mi corrono incontro e mi arrestano. Chiedo spiegazioni, ma nessuno parla o vuole parlare inglese, ed io logicamente non parlo tedesco. Mi trascinano letteralmente via, recuperano il mio passaporto, lasciano incustodito nella hall il mio bagaglio, mi caricano sulla loro Wartburg e mi portano al commissariato. Io non riesco assolutamente a capire cosa stia accadendo. Cerco di mettere a fuoco il mio comportamento da quando sono arrivato un paio di giorni prima in DDR. Ritengo di non avere commesso alcunché di illegale, perciò mi tranquillizzo pensando ad uno scambio di persone. Giunti in centrale, capisco al volo che, data l'ora avanzata del pomeriggio, c'è poca gente, pochi impiegati, pochi graduati. Mi viene il terrore che intendano farmi passare lì la notte senza nemmeno dirmi che cosa stia accadendo. Urlo a gran voce di poter parlare con qualcuno che conosca l'inglese. Non vengo nemmeno considerato e vengo rinchiuso in quella che mi appare una cella. A quel punto pretendo di poter parlare con l'ambasciata italiana di Berlino, ma anche in questo caso non mi degnano di alcuna risposta. Vi lascio immaginare lo stato d'animo in cui mi trovavo, come pure vi lascio immaginare la cena in un paese in cui si mangiava malissimo nei ristoranti, figurarsi nella cella per detenzione provvisoria di una centrale di polizia. Solo al mattino dopo, quando la centrale di polizia si animò di gente, riuscii ad ottenere di poter parlare con l'ambasciata e finalmente, grazie all'ambasciata, scoprii il motivo del mio arresto e risolsi il problema. Cosa avevo combinato? Un reato gravissimo. Io avevo un regolare visto, ma che valeva solo per Berlino Est, ed io mi ero recato in una città diversa, appunto Dresda. Ero già stato diverse volte in DDR, ma sempre solo a Berlino, ed ora scoprivo che per muoversi nel paese era necessario uno speciale visto che informasse sull'intero itinerario che si intendeva percorrere. Viaggiando molto nei paesi dell'Est Europa, inclusa l'Unione Sovietica, mi era già successo di tutto, ma quella è stata la prima e unica volta in cui sono stato arrestato. Luce del mattino, luce di un giorno strano, pensavi di essere perso e cambia il tuo destino, non sarà. Storia Luca l'ha raccontata dal vivo, appunto, in questa serata che Mauro tiene a Roma, quando è possibile farlo, ovviamente non in questo periodo, probabilmente ricomincerà, chissà, a ottobre, forse a gennaio, vedremo quando sarà possibile ripartire con gli eventi dal vivo. Vi dicevo, si chiama Mio Cugino, si raccontano storie abbastanza incredibili e Luca ha raccontato questa. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Da questa settimana abbiamo cominciato a chiedervi delle nuove pagine di diario, dal momento che la quarantena, se tutto va come dovrebbe andare, è per lo più terminata, se si va lentamente verso delle riaperture, vi abbiamo chiesto di mandarci i vostri diari delle ripartenze, cioè come, se siete ripartiti, in che modo l'avete fatto, se siete pronti, se vi sentite un po' allo sbaraglio oppure no, insomma il vostro diario della ripartenza a linee d'ombra chiocciola radio24.it. C'è una categoria in particolare a cui però noi teniamo, ed è una categoria che primo ha continuato a lavorare pressoché ininterrottamente durante questo lockdown. Secondo, sono dei grandissimi ascoltatori di radio e spesso ci dicono, quando mi capita di incontrarli, siamo degli ascoltatori di radio parlata, cioè di radio di parola, perché la musica o ci sciogliamo quello che vogliamo oppure il rischio è che ci faccia assopire. Sto parlando degli autotrasportatori. Gli autotrasportatori riempiono le nostre strade, le nostre autostrade, ci permettono di mangiare quello che mangiamo che arriva da luoghi lontani, di vestire quello che indossiamo, di adesso tutto praticamente, qualsiasi cosa che corra su ruote passa attraverso i loro camion, attraverso i loro viaggi su e giù dall'Italia e non solo, dentro e fuori dall'Italia. E quindi questa puntata abbiamo deciso di dedicare una storia tutta a loro, utilizzando una storia, come sempre facciamo appunto, utilizzando un episodio. E nella fattispecie il protagonista di oggi si chiama Daniele, appunto è un autotrasportatore e adesso vi racconteremo una storia che lui ci ha mandato, che è una storia legata proprio a un episodio che gli capita su una strada durante un momento di fortissimo disagio, è una storia di qualche tempo fa, ma ovviamente non abbiamo potuto fare a meno anche di chiedergli com'è stato questo periodo, perché noi chiusi in casa ci immaginavamo autostrade vuote e deserte sui quali loro potessero finalmente correre sereni senza grossi problemi. In realtà, come possiamo immaginare, non è stato così. Quindi prima sentiamo cosa ci racconta il periodo e poi la sua storia. Ci siamo scontrati con delle belle difficoltà. Innanzitutto il disagio principale è che i tempi di carico e scarico si sono molto allungati, quindi più controlli, il divieto assoluto di scendere dal camion, oltre al fatto i tempi di attesa all'interno dei posti. A questo sono giunte tutte le difficoltà per quanto riguarda la chiusura dei ristoranti, degli autogrill, quindi di tutto quello che sono i nostri punti di riferimento per le varie colazioni, pranzo e cena. Beh, in molti stabilimenti ti vietano praticamente la discesa dal camion. Sono il figlio di un autotrasportatore. Quando ero piccolino, mio papà mi portava con sé quando si trovava con i suoi colleghi al bar, in centro, a Piacenza, la nostra città. Io vedevo questi omoni forzuti, avevano tutti delle mani grandissime perché sui camion non c'era ancora il servosterzo e quindi ci voleva molta forza per condurli. Ero affascinato da quel mondo, così quando mio padre è morto nell'88 ho cominciato anche io a guidare il camion, prendendo il suo posto. All'epoca fare il camionista era diverso da oggi, c'era moltissima solidarietà, si viaggiava assieme in colonna e se c'era qualche difficoltà ci si dava una mano. Ci si parlava con la ricetrasmittente perché non c'erano i telefonini, ci si scambiavano idee, opinioni, barzellette, insomma, si faceva compagnia. La sera ci si dava appuntamento in uno dei ristoranti che per noi erano dei veri e propri punti di riferimento, come da Marisa al Barberino del Mugello o da Alberto ad Orte. In questi posti si mangiava davvero bene, proprio come vuole la leggenda. Si arrivava in orari diversi, ma si aspettava che ci fossimo tutti prima di iniziare a cenare. Insomma, c'era il piacere della condivisione. A questo proposito ricordo una storia accaduta proprio nei primi anni 90. Avevo 27 anni all'epoca. Trasportavo prodotti chimici. Stavo tornando da Roma. Mi trovavo sugli Appennini tra Roncobilaccio e Barberino del Mugello quando veniamo sorpresi da una nevicata impressionante, una bufera di vento fortissima. In poco tempo l'autostrada si ricopre di neve e il peso dei tir che ci passano sopra la compattano e la rendono molto pericolosa. Sono le 5 del pomeriggio, si procede a rilento, tutti incolonnati. A un certo punto entro in galleria e lì sono costretto a fermarmi. Alcuni mezzi all'uscita avevano perso il controllo e si erano messi di traverso. I soccorsi al momento non possono arrivare, viste le condizioni meteo. Siamo bloccati, tutti quanti, con la bufera che imperversa di fuori. Noi in galleria siamo al riparo, ma la temperatura è comunque molto bassa. Io spengo il motore perché il mio camion ha un sistema di riscaldamento automatico interno. Molte auto rimangono in attesa con il motore acceso per tenere l'abitacolo caldo. Davanti a me però c'è una macchina con una coppia di due bambini, avranno 4 e 7 anni. Vedo che i genitori si girano spesso per tranquillizzare i piccoli, ma il tempo passa e la situazione non si sblocca. A un certo punto noto che spengono il motore. Passa ancora un'oretta e mi decido a scendere dal camion per capire se hanno davvero bisogno. Quando il marito tira giù il finestrino mi spiega che sono in riserva e che non possono lasciare il motore acceso. Io gli rispondo spontaneamente: ma così congelate, chissà tra quanto si potrà ripartire. E quindi l'invito a salire in cabina da me, al caldo. dopo un po' di titubanze, accettano quello che a tutti gli effetti è un invito da uno sconosciuto. Appena saliti sul camion, i bambini si dimostrano felicissimi, si tolgono le giacche, le sciarpe, i cappelli e finalmente si riscaldano. Per cena condivido quelle pochissime cose che ho da mangiare, un pacco di biscotti, della frutta, un paio di bottigliette d'acqua. Man mano che le ore passano, entriamo in confidenza e chiacchieriamo a lungo. Io, che per hobby faccio il prestigiatore, intrattengo i bambini con dei giochi di prestigio, monetine, palline, foulard. Poi, siccome non ci sono segnali di ripartenza, faccio sdraiare la mamma e i piccoli sui lettini, do a loro delle coperte e si addormentano. Io e papà cerchiamo di riposare un po' sui sedili davanti. Passa la notte e la mattinata successiva così. Possiamo ripartire solo alle 3 del pomeriggio successivo. Questa famiglia ed io abbiamo passato 22 ore insieme e ancora oggi ho un bellissimo ricordo di loro. Quando sono dovuti scendere, i bambini mi hanno ringraziato e mi hanno dato un grande bacio. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk awake. Those who come relate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. La storia seriale che vi stiamo raccontando da ormai un paio di settimane è probabilmente una delle più difficili che abbiamo trattato. Sicuramente parlandone con Mauro Pescio, che le raccoglie tutte e quindi fa le interviste, incontra le persone spesso e poi le scrive e le rende radiofoniche, confrontandoci con questa storia lui stesso dice è stato un incontro fuori dal normale quello con questo ragazzo, un ragazzo che sopravvive al tentato omicidio del padre nei suoi confronti e sopravvive anche il fatto che il padre prima aveva ucciso la madre e nonostante tutto lui decide di riallacciare un rapporto con il padre. Sono tantissime le sfumature terribili di una situazione come questa, ma anche quelle più banali, anche quelle più semplici che accadono nella vita di una persona a cui è caduta sulla testa questa tragedia. E una di quelle sono ad esempio le dicerie, come si dice nel paese, quello che dicono nel paese, e ora ce la racconta. Scusami, questa cosa qui della considerazione degli altri, eccetera, è interessante. Per cui c'è il fatto che alcune persone si permettano di dirti come hai fatto, io non lo farei, come, cioè, e invece nel paese. Non sono mai stato interessato alle dicerie e non saprei dire se ce ne siano state, ma vivo e vivevamo in un piccolo paese dove ci conoscevamo tutti e dove tutti sanno tutto di tutti. La mia famiglia poi aveva una buona reputazione, mio papà lavorava in banca, mia mamma faceva la maestra. Avevano due posizioni molto stimate nel nostro piccolo centro. Forse per questo le persone fin da subito, dopo che mi incontravano, mi domandavano «E il papà come sta?».